9 in punto, la versione di Oscar. Tu pierdo suona in coppia il giornaletto e mamma ti minaccia e padre ti s'arraccia. Ti fanno gira a capo sti fumette guardando dentro specchio, puoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più torero, che si piazzata in capo sto sombrero, dice che si spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballà, mescolando bolerio ciacciacchi un brugliato torero. Questi basetta sudamericano, culo sigari avani a gamma se le picche, torero, torero, olè. Eccoci qua, Oscar Giannino inizia questa puntata in una maniera un po' anomala, avete visto, ho fatto ricorso a Carosone. Carosone in questa canzone in cui, insomma, lo dedichiamo all'assetto attuale di controllo di Telecom Italia, è un assetto di controllo nel quale dopo l'avvento di questo attuale nucleo di controllo di Telecom Italia, dopo la gestione di Marco Tronchetti Provera, ricordate l'estromissione di Marco Tronchetti Provera dopo una travagliata estate ai tempi del governo Prodi, passata a disquisire sull'italianità a rischio di Telecom Italia, su troppi debiti di Tronchetti, su che fine doveva fare la rete, se bisognava ripubblicizzare la rete, il piano Rovati, vi ricordate? C'è un gruppo di controllo successivo, sono passati altri anni e in questo gruppo di controllo il 40% del 25% attraverso cui il gruppo attuale di controllo di Telecom Italia esercita appunto il suo controllo dell'azienda, qui il 40% del 25% è a un concorrente alleato di Telecom Italia, Telefonica, gli spagnoli, per questo questa canzonetta su chi fa il torero. E detto questo, vedremo oggi quali problemi ci sono per l'ennesima volta per l'italianità a rischio di Telecom Italia. L'altro ieri il viceministro Romani finalmente in maniera esplicita di nuovo torna a dire che con Telco c'è un problema che riguarda l'italianità di Telecom Italia. C'è di solito, e puntualmente anche questa volta, il problema sottostante è che cosa fare della rete fissa di Telecom Italia. Tirarla fuori, scinderla, scinderla significa mettere per chi la controlla minusvalenze molto rilevanti, a verbale per così dire, però significa anche a quel punto ipotizzare che c'è qualcuno che non sono gli attuali controllori di Telecom Italia che ha diritto di decidere cosa fare e cosa non fare. In tutto questo Telecom Italia continua ad avere parecchi debiti, investe poco, la banda larga in Italia continua a non fare passi avanti, quindi per centinaia di migliaia di imprese italiane, che è la cosa che a noi importa molto, la produttività non continua a non crescere perché la banda larga non arriva, quindi è un problema comunque nazionale, ma è un problema in cui da una parte bisogna tenere grande attenzione verso il rispetto dei privati che controllano Telecom Italia, perché prima di dire si scinde una rete a cui sta attaccato il 65% dei margini dell'azienda, l'EBITDA, garanzie per strumenti finanziari emessi, bisogna pensarci tre volte, perché sarebbe un esproprio dal mio modesto punto di vista. Dall'altro però bisogna affrontarlo questo problema senza far finta di niente, perché dopo anni e anni che questa italianità ogni volta la politica ce la ripropone, dovremmo una volta per tutte tentare di chiarirci le idee. Ed è per questo che abbiamo invitato un po' di ospiti che si occupano da anni di questa questione, da punti di vista diversi. Io inizio a presentarveli per vedere se ci riusciamo e se soprattutto, visto che tra pochi giorni scade il patto che lega gli attuali soci del patto di sindacato in Telco, ripeto, oltre agli spagnoli ci sono quattro soci italiani, poi ma sono tutti finanziari perché sono due banche, sono Mediobanca e sono Generali, l'unico partner industriale è Telefonica e quindi il problema è: ma verrà rinnovato questo patto oppure gli spagnoli se ne andranno, lì si liquiderà? Sui giornali è partita una ridda di ipotesi, c'è chi dice entrano i cinesi, entrano i libici, entra questo, entra quello, e sul filo di tutte queste riflessioni io inizio a presentarvi gli ospiti. Abbiamo innanzitutto in studio Franco De Benedetti, è stato senatore per il centrosinistra per diverse legislature, ha scritto poco tempo fa un libro di cui abbiamo parlato anche a questa trasmissione con Antonio Pilati, il libro La guerra dei 30 anni, politica e televisione in Italia. Buongiorno Franco De Benedetti. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Poi abbiamo Massimo Mucchetti, vice direttore del Corriere della Sera, che da anni non fa mai mancare la sua penna tagliente nell'analisi sia dei debiti che dei problemi dell'assetto proprietario. serio di come la politica deve riguardare questi problemi di Telecom Italia. Buongiorno Mucchetti. Buongiorno a te Oscar e a tutti gli ascoltatori. E Giuseppe Oddo del Sole 24 Ore, che sia da solo che insieme ad altri colleghi ha scritto libri sulle delicate vicende di Telecom Italia, non solo quelle economiche e proprietarie, ma anche quelle di cui oggi ci sono trovati alcuni sviluppi sui giornali. Oggi è il giorno in cui i giornali pubblicano notizie del patteggiamento di Tavaroli, il capo della security di Telecom Italia ai tempi di Tronchetti. Ricordate tutte le vicende che interessarono anche Mucchetti, il Corriere della Sera ai tempi di Mucchetti, collegate a un'altra vicenda, quella dell'indagine della Procura di Milano sul caso Abu Omar, l'extraordinary rendition di Abu Omar da parte di una squadra di agenti della CIA, e con correlata richiesta del pubblico ministero di ben 13 anni di carcere per l'allora capo del SISMI, Pollari. Fine della cosa. Buongiorno a tutti voi. Ecco, buongiorno Oddo. Iniziamo con Mucchetti. Dal tuo punto di vista, la battuta di Romani e tutto quello che c'è sui giornali oggi, eccetera, è una semplice preliminare di un patto di sindacato che torna uguale tra pochi giorni a confermarsi, con tutti i problemi di Telecom Italia che restano, tutti che fanno finta di non vedere che la presenza, per esempio, ne cito solo uno, degli spagnoli in telco comporta parecchi problemi, per esempio per tutti gli asset controllati da Telecom Italia in Sud America. L'azienda si è molto ritirata in questi anni per far fronte ai troppi debiti ereditati, però ha anche problemi di mercato, perché le autorità di mercato dei due grandi paesi del Sud America, per via della presenza degli spagnoli, continuano a dire dovete cedere questo, dovete cedere quello. Ma intanto voglio premettere una scusa con i nostri ascoltatori, perché di qui a una mezz'oretta dovrò lasciarvi, quindi con qualche anticipo sulla fine della trasmissione per un altro impegno. Detto questo, credo che non possiamo scoprire oggi che Telefonica è in conflitto di interessi con Telecom Italia, perché è socia che esercita assieme ad altri il controllo e nello stesso tempo è concorrente, specialmente nei mercati sudamericani. Questo lo si sapeva fin dall'inizio, non lo si può scoprire oggi. E tuttavia questo si ritenne di fare perché la gestione precedente, anzi le gestioni precedenti, avevano caricato Telecom Italia di una tale quantità di debiti, prevalentemente fatti allo scopo di fare e concludere battaglie finanziarie per il controllo della società e non certo per il suo sviluppo. Ricordiamo che il perimetro di Telecom Italia, cioè l'estensione del gruppo, l'estensione dei suoi affari, con la privatizzazione si è fortissimamente ridotto. Telecom Italia, per dirvene una, possedeva il 10% di Bharti, che è il più grande operatore indiano. Ora l'India è, assieme alla Cina e all'Africa, è l'Eldorado della comunicazione, delle telecomunicazioni mobili. Aveva quel 10%, gli era costato pochissimo, fu una scelta estremamente lungimirante. Oggi sarebbe al centro dei giochi, invece lo vendette per un tozzo di pane, per ripianare i debiti che gli azionisti avevano fatto per comprare la società e che poi avevano scaricato sulla società medesima. Durerà questo patto di sindacato? Durerà Telco? Io penso che Telecom Italia è una grande azienda che c'era prima che nascesse Telco, prima che fosse conquistata da Tronchetti, da Colaninna e quant'altro, e che ci sarà dopo di loro. Bisogna pensare a Telecom Italia. Questo è il focus, non i suoi azionisti. I suoi azionisti sono entrati con tante motivazioni e in questo caso Telco ha commesso lo stesso errore dei precedenti, cioè ha strapagato il controllo. Se Telco voleva controllare Telecom Italia, non aveva altro da fare che comprare le azioni in borsa, le avrebbe pagate molto di meno e certo avrebbe lasciato andare la Pirelli al suo destino. Ma il problema è il bene di Telecom o il bene degli azionisti che avevano fatto gli investimenti sbagliati su Telecom? Questo è il punto. E a questa domanda la risposta obbligata è il bene di Telecom. La maggior parte degli SMS che arrivano immediatamente infatti si focalizzano su questo, in sintesi. Ma il controllo, due punti, chi se ne importa? Noi vorremmo un'azienda che riprende a creare valore, riprende a investire di più sul proprio capitale, sul proprio pingue utile, invece di dover ripagare i debiti in alto. Ma i debiti oramai ci sono, ecco. E quindi sono un vincolo. A questo punto la cosa più seria è fare un aumento di capitale. Chi ci sta e chi non ci sta si tira indietro, perché fa il male dell'azienda. Questo è il primo punto. Secondo punto, i cinesi, si è molto parlato, dice via la Telefonica, entrano i cinesi. Io non ci credo, perché i cinesi non hanno l'anello al naso, hanno una civiltà che è anche più lunga della nostra. I cinesi hanno una grande azienda, Huawei, che sta diventando uno dei principali, sono il principale fornitore mondiale di piattaforme industriali per la telefonia. Avrà certamente interesse a vendere queste cose in Italia. Vogliamo fare le reti, vogliamo investire. Ecco, loro probabilmente sono venuti a cercarci, hanno parlato con noi per dirci: guardate, noi vi diamo, se ci assicurate una commessa di lungo termine, noi vi possiamo venire incontro sul finanziamento, incrociamo le garanzie degli stati. Da qui a pensare che un fornitore entri nel capitale di Telecom, secondo me il passo è un pochettino troppo lungo e non avrebbe molto senso. Giuseppe Oddo, ieri un quotidiano spagnolo ha riproposto un tormentone che ritualmente si ripresenta ogni qualvolta il controllo di Telecom va nei dubbi, cioè l'economista ha detto: no, guardate che a fianco degli spagnoli, per rafforzare la prospettiva di un socio industriale molto importante, con prospettive, con forte presenza sul mercato italiano, Mediaset è pronta a entrare nel capitale. Allora, da anni si ripropone questa questione, ma ha senso industrialmente, al di là del fatto che è del Presidente del Consiglio, ma che non è un problema irrilevante ovviamente, ma ha senso industrialmente che i produttori di contenuti e invece i carrier si mettano insieme, oppure una prospettiva che industrialmente, prima ancora di problemi di conflitto di interesse, non ha più senso perché sono mestieri separati, il carrier porta i bit e chi offre servizi deve specializzarsi nella vendita dei servizi tramite il carrier, avendo il cliente diretto da portare a casa. Lei come la pensa? Ma dunque, a parte la non irrilevante questione del conflitto di interesse, l'ho detto apposta. Io credo che per una società come la Telecom, legasse a un solo distributore di contenuti sarebbe, a un solo produttore di contenuti sarebbe un errore, perché le grandi società come la Telecom sono dei distributori di contenuti e quindi debbono fare accordi con più produttori. Quindi io credo che questa operazione, da un punto di vista industriale, sarebbe un'operazione sbagliata, insomma. Volevo però aggiungere qualche cosa anche sulla questione dell'azionariato. Io credo che senza una stabilità dell'azionariato la società non possa essere gestita, e il difetto sta nel manico, cioè sta nel modo in cui questa società è stata privatizzata. Non dimentichiamo che la Telecom fu sacrificata nel 97 sull'altare, diciamo, dell'ingresso nell'euro, e la privatizzazione fu fatta sostanzialmente per dare dei segnali all'Europa in direzione di una riduzione del debito pubblico e per fare cassa. Io vorrei ricordare che altri paesi come la Francia, soprattutto come la Germania, per privatizzare non scelsero la vendita delle azioni, ma quella di ricapitalizzare l'azienda. Quindi, e questo per esempio ha consentito a Deutsche Telekom di mantenere una presenza pubblica e di dotare la società di mezzi sufficienti al rilancio. Oggi da una parte la società ha un debito molto elevato, che è frutto di tutte le vicende che sono succedute dalla scalata di Covanin in poi, dall'altro lato ha un azionariato che non funziona, perché c'è un socio di mestiere che è la Telefonica, che vorrebbe prendersi la Telecom o comunque le parti più pregiate, come le attività brasiliane, che sono le uniche che crescono in questo momento, e dall'altro lato un debito che non le consente di fare gli investimenti e che andrebbe abbattuto con una forte ricapitalizzazione, che questi soci non vogliono fare, perché il mestiere delle banche non è quello di governare una società di telecomunicazione. E quindi in questa contraddizione io penso che il problema della Telco mi sembra in questo momento un problema irrisolvibile, perché la Telecom è una società troppo grande per un solo soggetto giuridico. Abbiamo visto che quando la Pirelli ha tentato di assumere il controllo della società, alla fine non c'è riuscito e ha dovuto gettare la spugna. In tutti i paesi del mondo, i grandi carrier come la Telecom, i grandi competitor come la Telecom, o sono public company o sono società di Stato. Ecco, in questa contraddizione la Telecom Italia non è né carne né pesce. Ecco, quindi... in questa contraddizione Franco De Benedetti pone in campo una questione che già sta tornando agli interventi di Massimo, Mucchetti, di Oddo. La critica al privato, non solo a come è stata fatta la privatizzazione, ma ai diversi controllori che sono succeduti nel tempo di Telecom Italia, cioè Colaninno, Tronchetti, fino alla compagine attuale, che è, che è solo finanziaria dal punto di vista italiano, mentre le due precedenti avevano invece una solida visione industriale. L'hanno cambiata nel tempo, ma ce l'avevano. Ecco, la critica al privato, che poi in sintesi è: vi siete troppo indebitati, avete pensato troppo alla finanza. Io rimarco sempre la differenza, perché Colaninno comunque spalmò con l'OPA i benefici della sua operazione su tutto il mercato, e quindi questo non è da poco rispetto poi a chi è succeduto nel tempo. Poi i debiti erano in testa Olivetti, non in testa. Ecco, però detto tutto questo, se dovessimo fare un bilancio, qui sono i privati che ne escono un po' con le ossa rotte, lei che dice? Ma prima di tutto io non riesco a capire che cosa porterebbe la presenza di un azionariato, un azionista pubblico, seppure di importante minoranza all'interno di Telecom, altro che a irrigidire l'azienda, impedendo, essendo di garanzia che non sa che non venga di garanzia dell'italianità. Io credo che abbiamo sacrificato molto alla garanzia dell'italianità. Per carità, non è che chiunque vuole entrare e comprare una quota o anche il controllo di un'azienda sia benvenuto, però mettere delle preclusioni, mi sembra che quando uno ha le criticità che ha la Telecom adesso e anche prima, sia un po' sbagliato. Anch'io non so bene come si faccia in questo momento a risolvere il problema, perché la situazione, e la cosa più critica mi sembra la situazione del Brasile, giustamente è stata sottolineata, perché ha già perso l'Argentina. Se in Brasile questa situazione in cui l'azienda è di due aziende e di due proprietari del mestiere, che però non possono parlarsi tra di loro perché se no interviene l'antitrust, evidentemente non è favorevole alla crescita o al bene dell'azienda brasiliana. E quindi questo mi sembra veramente un impasse, perché per il resto la società italiana, d'accordo, c'ha i suoi debiti, però non è che dal punto di vista non si capisce per quale altro motivo, dice, la presenza di Telecom è la presenza di Telefonica è un problema. Quale problema? Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di Telecom Italia, del suo gruppo di controllo, dei problemi posti all'interno di questo gruppo dall'unico socio industriale, che sono gli spagnoli di Telefonica, in previsione di un travagliato, o forse meno travagliato di quello che sembra, rinnovo di questo patto di controllo che scade a ottobre, e la questione è essere rinnovarlo per altri 3 anni, meno di 3 anni. Far subentrare altri stranieri meno ingombranti di Telefonica, che come abbiamo visto pone dei problemi di antitrust in rilevanti mercati in cui c'era ed era più forte ancora negli anni precedenti Telecom Italia. Mucchetti dice però questo problema si sapeva fin dall'inizio, quindi tentiamo di tenere questa sinergia. Ma la domanda finale di Franco De Benedetti era: ma in realtà che problema comporta questo tipo di struttura? Comporta un problema che è la bassa capacità di investire di Telecom Italia. E io ricordo che già viviamo in un paese con una bassa percentuale di presenza dei PC nelle nostre famiglie, sono solo il 49%, e tendenzialmente abbiamo raggiunto una specie di apparente saturazione inerziale, cioè non crescono più. Questo significa che c'è un forte limite rispetto agli altri paesi che sono i nostri competitor. Questo significa che c'è un limite, per esempio, anche a investire su migliorare la qualità dell'accesso e dare più banda alle famiglie e alle imprese italiane. Ci abbiamo un problema irrisolto che ci trasciniamo da anni, perché fino a 3 anni fa eravamo il paese con l'infrastruttura più avanzata in Europa, fatta però dal concorrente di Telecom Italia, perché oltre al doppino in rame di Telecom Italia, dove si fa banda larga fino a qualche mega con la tecnologia DSL, abbiamo un privato, cioè Fastweb, che ha steso rete fibra per i fatti suoi e ha creato la rete di nuova generazione più avanzata rispetto a tutta Europa, cioè i 2/5 di quella che c'è in tutta Europa ce l'abbiamo in Italia con Fastweb. Ma da 3 anni a questa parte, per via del fatto che Telecom Italia investe sempre meno, cioè taglia gli investimenti, e di poche settimane fa la notizia che altri 600 informatici del gruppo escono dal gruppo, si cede l'attività, avendo poche risorse su cui investire, si blocca anche tutto un programma nazionale fatto anche dai concorrenti che investono meno per portare la banda larga in Italia. E su questo ricorrentemente si apre un dibattito dibattito. Sembrava che alla nascita del governo Berlusconi si dovesse riprendere in mano questa questione. 800 milioni di euro all'inizio del governo Berlusconi stanziati quantomeno per affrontare il problema del digital divide, cioè portare almeno 2 mega di banda a quel 13-14% di italiani che attualmente non hanno neanche quella. Invece poi non si è ancora fatto niente, anzi parte di quei denari sono stati poi riallocati per altri scopi, compreso l'Abruzzo. Un paese che non si pone questi problemi, ha scritto più volte Massimo Mucchetti, è un paese che non si rende conto che condanna se stesso a sempre minore produttività, e ha più volte Massimo Mucchetti proposto l'esempio di altri grandi paesi. La questione, tutte le volte che si tocca a questo punto, è la rete di Telecom Italia, perché se si bisogna partire dal presupposto che i suoi attuali soci di controllo non hanno risorse finanziarie, visti i debiti, per investire, e bisogna far partire invece un programma considerato strategico nazionale in cui coinvolgere anche gli altri operatori, anche i concorrenti, il problema dipende appunto, e tutto ciò non si può fare se non si tocca in qualche modo, separandola, scindendola, identificando come questa rete diventa un asset in qualche maniera condiviso, non proprietariamente, societariamente, come prospettiva di sviluppo, con manager e tariffe remunerate ma decise da un'autorità pubblica. Ci sono diversi modelli nel mondo, ma qualcuna di queste forse bisogna adottarla, perché altrimenti noi ci condanniamo a non fare passi avanti. Mucchetti, come vedi lo sviluppo di tutto questo a un anno e più dalla nascita di questo governo? Ma intanto vedo che nel caso delle telecomunicazioni, come in altri casi, sono fatte molte chiacchiere, ma i soldi poi non sono mai stati messi davvero a disposizione, primo punto. Erano comunque molto pochi, secondo punto. Terzo punto, credo però che dobbiamo guardare con un po' di ottimismo al futuro, in considerazione di un elemento, che il mondo cambia, e rispetto a 4, 5, 7 anni fa, il sistema, l'industria delle telecomunicazioni sta diventando sempre più rete. È stata usata molto spesso l'espressione carrier, no? Che più o meno è questo, trasportatore, sì. E sempre meno servizi. In che senso? Nel senso che oggi i veri servizi sulla rete telefonica, sulla rete internet, te li dà Google, te li dà Apple, che è un grande aggregatore di servizi, l'iPod, il BlackBerry, cioè sono tutte cose che non sono prodotte dalle compagnie telefoniche tradizionali. Non c'è dubbio, le compagnie telefoniche offrono a ciascuno di questi servitori diversi di servizi, clientela molto profilata, che è una delle cose che... Ecco, allora, il punto è che forse dobbiamo ribaltare il modo che avevamo di pensare, e cioè non considerare che c'è una rete da scorporare da Telecom, perché oggi Telecom è la rete, sono la stessa cosa. Semmai c'è da domandarsi se abbia senso che Telecom investa nei servizi non avendo soldi per investire. Questa è una scommessa che la può fare Vodafone, per dire, ma Telecom Italia non la vedo. Io vedo una Telecom Italia che si concentra sulla rete e che il resto sfronda, però per sfrondare il resto si creeranno dei problemi occupazionali molto seri, ed è questo il nodo vero che dobbiamo affrontare. Cioè, per dirne una, dovrebbe vendere la 7, perché non ha più nessun senso. Ma la 7 può vendere o non venderla, non cambia niente. Non cambia niente, perché è un'entità talmente piccola che non cambia la situazione. Quello che voglio dire è che quando si pone la necessità di dare un impulso all'infrastruttura del paese, si dice che Telecom è la rete, e questo è il punto, mentre non ha più tanto senso. Guarda, io sono stato uno di quelli che da lunga pezza dice dobbiamo scorporare la rete, ma nel momento in cui si pensava che i servizi potessero avere un avvenire privilegiato, oggi è il contrario, e di questo bisogna prendere atto. Vorrei anche ricordare una cosa, che quando c'era la mano pubblica. Mucchetti, lei lo sa che si espone inevitabilmente in questo paese in cui molti pensano male all'idea che lei pensava a scorporare la rete quando c'era il governo di un colore e poi invece... No, guardi, io lo so che non è così. No, difendo preventivamente. No, scusate. Ho cominciato a scriverne prima che ci fosse Prodi. Lo so. No, quindi voglio dire, da questo punto di vista è una roba. Quello che stavo arrivando a dire è un'altra cosa, ancora peggio da questo punto di vista. Quando c'erano i boiardi di Stato, che tutti noi abbiamo ferocemente criticato, Telecom Italia non aveva debiti e faceva tanti investimenti e guadagnava discretamente. Poi ha guadagnato molto, ha tirato fuori 60 miliardi di dividendi per dei soci avidissimi perché indebitati, ha drasticamente ridotto gli investimenti. È una favola che 3 anni fa la rete italiana era strepitosa, lo scrivevano 4 banche d'affari interessate alle commesse, quelle stesse che hanno mandato a catafascio il mondo. Ma ci crediamo ancora a questi venditori di fumo? Io credo di no. Mucchetti, lo diceva l'autorità, lo diceva l'autorità europea. Lei può dire, la pagava Telecom di Tronchetti. Ma questo... no, ma voglio dire, io, questa, l'autorità europea diceva anche che avevamo il minor tasso di penetrazione della banda larga, quella vera. Cioè, Fasto ha collegato 4 quartieri di Milano, ma che cosa stiamo a dire? Cioè, ma quelle, era la Morgan Stanley che veniva citata, mi ricordo allora, dall'allora gestore, diceva la Telecom Italia è la miglior rete d'Europa, ma lasciamoli parlare quelli delle banche d'affari. Non sa, ma, dico, ma crediamo a questi signori che devono semplicemente piazzare dei titoli e che la raccontano a ciascuno in un modo diverso? Noi abbiamo il compito di ragionare con la nostra testa, di andare a fondo dei problemi. Se andiamo a fondo dei problemi, vediamo qual è stata l'intensità degli investimenti. C'è un bel libro, un bel saggio di Riccardo Gallo che mette a confronto gli investimenti negli ultimi 10 anni, che sono quelli di gestione privata, e si vede che c'è stato un tracollo rispetto a prima. E questi sono numeri. E davanti a questa cosa qui dobbiamo domandarci, non è che noi possiamo tornare indietro, indietro non si torna, ma guardando avanti che cosa è interessante fare. Allora a questo punto è interessante mettere l'azienda nelle condizioni di marciare senza essere condizionata da coloro i quali ne detengono il controllo e che per ragioni di potere l'hanno anche comprato. Così non capisco gradi. Cosa vuol dire, cioè, non è che li isoliamo e li mandiamo in manicomio, quelli che esercitano il controllo, perché così non capisco, cioè, quindi no, come facciamo? Purtroppo arriviamo a un punto nel quale questa azienda o si condanna a un lento declino o se no ci sarà un momento in cui il management e al limite anche la politica come contorno debbano incoraggiare l'azienda a fare quei passi che sono necessari per il suo sviluppo. Vedete, la politica insiste perché le banche prendano i Tremonti Bond che non gli servono a questo punto. Sarebbe meglio che insistesse affinché Telecom Italia facesse l'aumento di capitale che deve fare da anni e che non fa perché chi ha in mano il pallino non lo vuol fare. Ecco, no, ecco, questo lo capisco. Quindi un aumento di capitale massiccio che quindi diluisce gli attuali soci. Questa mi sembra... se questi non vogliono correre, non vogliono starci dietro, se non vogliono stanno dietro, tanto meglio. Perfetto. Allora ringraziamo Massimo, l'abbiamo fatto parlare un po' di più perché Mucchetti aveva avvisato che adesso ci deve lasciare. Ringrazio. Grazie a lei, e tanti come saluti sempre. A tutti. Oddo, condivide la nostalgia, diciamo così, numeri alla mano, però c'era il capitale pubblico, i soldi di tutti, decenni di capitale pubblico concentrato là dentro, dei manager pubblici. È giusto avere questo tipo di nostalgia, secondo lei? Ma sicuramente i manager pubblici avevano una conoscenza di Telecom che diciamo alcuni management che li hanno seguiti insomma non avevano. Il problema è che, tanto per ricollegarci al discorso di partenza, è che l'instabilità azionaria ha creato anche un'instabilità manageriale. Cioè, io penso che in questa situazione oggi la società sia impedita a investire in Italia e impedita anche a investire all'estero. A investire in Italia perché, ripeto, intanto occorrerebbe un aumento di capitale che abbattesse il debito e proiettasse la società verso questa rete di nuova generazione di cui si è a lungo discusso, che peraltro comporterebbe grandissimi investimenti e probabilmente anche una revisione, diciamo, dell'approccio tariffario per rendere questa rete remunerativa. E dall'altro lato, con un socio come Telefonica, la società è impedita a crescere all'estero perché ovviamente in tutti quei mercati in cui Telecom Italia è concorrente di Telefonica, la Telefonica, che è il suo importante azionista, non ha nessun interesse a farlo crescere. Senza parlare del fatto che i conflitti di interesse che si generano per esempio in paesi del Sud America come l'Argentina e il Brasile, dove per esempio in Brasile la Telefonica è azionista del primo e del secondo gestore, quindi con un conflitto di interesse che può diventare appunto, come ricordava De Benedetti, un elemento di paralisi. E questo naturalmente rappresenta un freno per la Telecom in uno nel mercato che rappresenta il futuro. Insomma, io vorrei ricordare che tra clienti mobili e clienti fissi in Italia nei primi sei mesi del 2009 la Telecom ha perso 3.000 clienti. Sì, rispetto a tempi clienti, in cui ne guadagnava a trimestre decine e decine di migliaia. L'unico mercato che cresce è il mercato radiomobile brasiliano, più 4%. Oggi in Brasile la Telecom ha quasi 38 milioni di utenti radiomobili contro i quasi 33 milioni dell'Italia. Quindi diciamo il mercato brasiliano, per quanto riguarda la crescita, le prospettive di sviluppo della società, ha un valore enorme. Vorrei ricordare che addirittura ai tempi di Tronchetti si era pensato addirittura di vendere, anche se poi questa notizia fu smentita, eccetera, ma la realtà era questa, di vendere la società per cercare di tenere in piedi una barca che affondava. Quindi il problema è la presenza di Telefonica nei mercati sudamericani, dove Telefonica è il principale gestore e che è confliggente, diciamo, con Telecom Italia, è un elemento, rischia di essere un elemento di paralisi. Dopodiché il problema dell'azionariato, nei termini, diciamo, in questi termini, a me sembra abbastanza irrisolvibile, perché dopo Telefonica non so chi potrà venire un'altra società straniera, oppure non so, ci potrà essere un nuovo accrocchio come quello che si creò ai tempi di Tronchetti, ma abbiamo visto che queste soluzioni non funzionano, perché quindi, non riesce a dare una stabilità. Bisogna rassegnarsi al fatto che nessun socio industriale italiano è in grado di prendersela. Eccoci tornati in studio, ci occupiamo ancora per pochi minuti delle questioni relative al controllo proprietario di Telecom Italia, ai debiti di questa azienda, l'impatto che hanno i suoi scarsi investimenti negli anni su infrastrutture di rete tecnologica necessarie per innalzare la produttività di tutto il paese. Una domanda a Franco De Benedetti: abbiamo sentito la nostalgia per i grandi manager pubblici, abbiamo sentito analisi che dicono però in realtà qual è l'alternativa all'attuale assetto di controllo. Abbiamo sperimentato diversi proposte di soci industriali italiani, ma in realtà hanno perso la sfida. Ma in realtà questo aumento di capitale, io ho l'impressione che non è mica detto che se noi lo lanciassimo, come dice Massimo Mucchetti, gli spagnoli stirassero indietro. Non è che per caso non vogliamo che lo facciano proprio. Ecco, cioè, proprio quello che dice Paolo Romani, dice la Telefonica è un problema. In che senso è un problema? Lasciamo perdere il caso brasiliano, che non è un problema che riguarda l'Italia e la Spagna, ma riguarda l'antitrust brasiliano e poi evidentemente la struttura proprietaria. Ma in che senso Telefonica è un problema? Il problema sono i debiti. È chiaro che se noi incominciamo a dire che c'è i debiti, però c'è un socio che al 40%, al 10% della società, 40% indirettamente nella società che lo controlla, e non vogliamo che aumenti, mettiamo un limite di qui, mettiamo un limite di là, e i soldi qualcuno... Allora chi è che ci piace? Ecco, non vorrei che alla fine si dicesse ci piace lo Stato, perché quello a me non piace e credo che non debba piacere a nessuno. Per quello che riguarda poi la banda larga, che è sicuramente un problema, però anche lì bisogna vedere se il problema non ce lo creiamo. Prima di tutto con dei piani, con delle idee eccessivamente ambiziosi, cioè di dire che la banda larga deve essere uguale in tutti in Italia, non ci deve essere il digital divide, come se non ci fosse una differenza tra vivere in un paese di campagna e vivere nelle città. Ecco. Ma poi perché non si investe? Perché o si prevede che i ricavi sono troppo pochi, o perché i costi sono troppo elevati, o perché non si ha il fiato abbastanza lungo, e cioè l'investimento rende in un tempo troppo lungo. Ora, che i ricavi siano pochi, questo è sicuramente un problema, perché i ricavi da rete fissa sono in diminuzione, in costante diminuzione. Faccio osservare, sono in diminuzione quelli di chi offre tecnologia e banda scarsa. Cioè Fasto, il concorrente privato su banda larga che fa 100 mega, ha l'ARPU più elevato in Europa per cliente, cioè l'ARPU è quanto spende il cliente al mese per i servizi su un'infrastruttura. Allora, vuol dire che i costi sono eccessivi. Perché i costi sono eccessivi? Perché la si paga troppo cara. E ritorniamo sempre allo solito problema. Questa azienda si è pagata troppo cara, l'unica cosa è un aumento di capitale, che significa diluire e quindi abbassare il valore di carico di quella, e quindi questa è l'unica soluzione. E a quel punto però se lo fanno gli spagnoli, se crescono addirittura, non c'è nessun problema. problema. Io voglio solo dire che in Inghilterra la Vodafone ha comprato O2 da British Telecom. Si capisce che se mettiamo poi dei vincoli a tutte le parti, poi alla fine non ci piacciono, giustamente, per carità, i messicani non ci piacciono, gli spagnoli neanche, i cinesi neanche, tutti con ottime ragioni. Però a un certo punto... E restiamo seduti sui nostri guai. A questo proposito ci sono due telefonate. Antonio da Roma, prego. Buongiorno dottor Giannino, io volevo fare solo questa considerazione proprio a proposito della difficoltà, diciamo, di estromettere, usando un brutto verbo, gli spagnoli. Telefonica, quando è entrata in Telecom, ha pagato le azioni 2,85 euro. Sì. Oggi l'azione, diciamo, che viaggia intorno agli 1,2 euro, sì. Esatto, 1,25 euro. Quindi chi volesse appunto prendere il posto di Telefonica deve per forza, diciamo, pagare le sue azioni a un prezzo vicino a quello di ingresso, perché altrimenti Telefonica avrebbe una perdita in conto capitale molto forte, e io non vedo nessuno che ci abbia questi soldi, a meno di banche o grosse società molto molto liquide. Era questo il mio intervento e mi sarebbe piaciuto sapere appunto un'opinione sua dei suoi esperti. Grazie. Ma guardi, i valori sul mercato si deprimono nelle unità di tempo e serve poi assolutamente, il tempo serve di solito per fotografare istantanee fotografiche in cui il valore viene adeguato a quello che il mercato valuta, punto numero uno. Punto numero due, guardi che qui stiamo parlando di un 40% del 25%. In un mondo con la liquidità che c'è oggi, noi non stiamo, mi dispiace su questo, parlando di cifre inarrivabili. Questa è la stessa ragione per cui ormai un bel po' di anni fa, quando Colaninno ebbe una disponibilità per fare un'operazione di mercato, di un ammontare mai visto nel nostro paese, tutti rimasero senza parole. Il mondo questa disponibilità oggi ce l'ha a disposizione. Il senatore De Benedetti voleva dire una cosa. No, volevo dire, chi è liquido rimane tale se non strapaga le cose, se non paga le cose a un prezzo sbagliato. Quindi il problema è di trovare qualcuno, sì, che abbia la liquidità ma che abbia poi voglia di pagare le azioni il doppio di quello che valgono. Ecco, mi sembra un po' strano. Alessandro da Treviso, la provincia di Treviso, prego Alessandro. Ah, volevo solo dire che io non voglio lo Stato, vorrei un concorrente sulla possibilità di estendere la linea. Io sono 2 anni che vivo su una casa, io lavoro su internet, sono 2 anni che vivo su una casa non allacciata al telefono. Non esiste nessun concorrente in Italia di telecomunicazioni, cioè non c'è, perché non può esserci nessuno che mi faccia un'estensione di linea, cioè 10 metri di scavo da una centralina fino a casa mia devo passare per Telecomunicazioni, anche se io ho richiesto Fastweb che arriva dal mio quartiere con i suoi servizi, però questa estensione mi permette di collegarmi, questa estensione di linea non si può fare se non con Telecom, e io sono 2 anni che aspetto questa cosa. E questo è esattamente il tema del digital divide di cui ci siamo già occupati. A dire la verità, ci sono state poste le premesse per farlo, e che poi ancora non si riesca a farlo concretamente dipende da attuazioni di una norma. In realtà è possibile. Spero che non passi troppo tempo, temo però che i problemi dell'asse di controllo dei debiti di Telecom Italia continueranno a ritardare esattamente la soluzione di questo, come del problema invece di banda larga a migliaia e migliaia di imprese italiane che ne hanno bisogno per la loro produttività. Allora, abbiamo fatto non un processo agli attuali azionisti di controllo, personalmente io non li rimpiango troppo, i manager pubblici sono un po' in minoranza rispetto a Massimo Mucchetti, e sono invece dell'idea che effettivamente l'italianità sia un falso problema. Tutte le volte che ho visto la politica di un colore o di un altro buttare via Tronchetti perché faceva Murdoch, adesso prima cambiare idea sul fatto che la rete andava messa fuori, adesso invece che ti ha detto no, non è più un problema, io temo che ci sia troppa politica italiana dietro, e le bandiere nazionali non servono, servono soci capaci di investire meglio e di risolvere questo dannato problema dei tanti debiti che sono inglobati là dentro. Si può fare, io ne sono convinto. Ringrazio regia Valerio Rocchetti, Filippo Oreggi e Gloria Guerrera, senza di cui non andrei mai in onda. Ieri vi ho detto ci rivediamo lunedì, ero un pochino stanco, invece no, ci vediamo ben domani, che non è lunedì, domani vediamo di azzeccare, è venerdì, e ora la linea al giornale radio.